Dimmi qualche cosa di gentile, chérie, mentre fra le braccia io ti stringo così. Dimmi ciò che mai nessun altro sentirà e soltanto il tuo sguardo svelar potrà. E dimmi qualche cosa di gentile, amor, l'ansia svanirà nel mio cuore. Felice io sarò di poterti ascoltare ogni dì, che m'ami, dimmi ancor, mio chéri. Fra le braccia io ti stringo così, dimmi ciò che mai nessun altro sentirà e soltanto il tuo sguardo svelar potrà. Dimmi qualche cosa di gentil, amor, l'ansia svanirà nel mio cuore. Felice io sarò di poterti ascoltare ogni dì, che m'ami, dimmi ancor, mon cher.